82. Risotto coi gamberi. Si racconta che una gamberessa, riprovando un giorno la sua figliuola, le diceva: «Mio Dio, come vai torta! Non puoi camminare diritta!» «E voi, mamma, come camminate?» rispose la figliuola. «Posso andar dritta, quando qui tutti vedo che vanno storti?» La figliuola aveva ragione. Grammi 300 circa di gamberi potranno bastare per grammi 700 di riso e servire per 8 persone. Fate un battuto abbondante con mezza cipolla, 3 spicchi d'aglio, carota, sedano e prezzemolo e mettetelo al fuoco con olio in proporzione. Credo che l'aglio in questo caso sia necessario per correggere il dolce dei gamberi. Quando il soffritto avrà preso colore, buttategli dentro i gamberi e conditeli con sale e pepe. Rivoltateli spesso e quando tutti saranno divenuti rossi, bagnateli con sugo di pomodoro o conserva e poco dopo versate tanta acqua calda che possa bastare per il riso. Lasciate bollire non tanto perché i gamberi cuociono presto, poi levateli asciutti e una quarta parte, scegliendo i più grossi, sbucciateli e metteteli da parte. Gli altri pestateli nel mortaio, passateli dall'ostaccio e la polpa passata mescolatela al brodo dove sono stati cotti. Mettete al fuoco un pezzetto di burro in una cazzaruola e versatevi il riso nettato senza lavarlo. Rimestate continuamente. Quando il riso avrà preso il lustro del burro, versate il brodo caldo a poco per volta. A più di mezza cottura, uniteci i gamberi interi già sbucciati e prima di servirlo, dategli grazia con un pugno di parmigiano. Se quando fate questi risotti di magro avete in serbo del brodo di carne, servitevene, che con esso riesceranno più sostanziosi e più delicati.